usare la tua pennetta. Se posso usare la tua pennetta, niente. Sì. C'è una micro possibilità che riesca a farvi vedere la fine. Prego. Una cosa che mi ricorda, sì. Ha parlato di chiedere di farmi l'avviamento. Non so dire, non si può. Il punto tecnico della ruota è che forse 30 litri al secondo ogni minuto, quindi non è impermeabile. Allora, il problema è che non è impermeabile, davanti ai venti del genere. Guarda, l'ho comprata. Sai perché l'ho comprata? Perché voglio fare le prove di impermeabilità. Purtroppo drena troppo poco rispetto a quello che è un po' il ragionamento del tombino. Il tombino c'è, la rete del sottobano esiste, ma con eventi così intensi non riescono, è troppa la quantità d'acqua, per cui diventa impermeabile. Però sotto il tiro normalmente si mette la sabbia e addirittura anche delle cose positive, perché ad esempio la terra normalmente scivola nei fossati, in questo caso viene tenuta dal tiro, quindi non basta per i fossati. In Italia facciamo un grosso errore perché i fossati li chiudono e li mettono in tubi rotondi. I tubi rotondi dopo pochi anni sono neanche più mezzi di terra, quindi non riescono a portare via l'acqua. No? I romani, che erano molto più bravi di adesso, facevano i tubi a uovo rovesciato, perché la parte superiore, essendo più grossa, teneva la pressione, teneva pulito, si autopuliva. In Francia ho visto che lo fanno ancora adesso i tombini, cioè non mettono i tubi rotondi, mettono fatti a uovo rovesciato. Quindi sono autopuliti, perché il problema dei tombini è che poi non li puoi pulire, perché comunque c'è il tubo, ogni tanto ci sono tombini, come fai a scendere un tubo magari da 50, da andare a pulire, il tubo, cioè poi alla fine il tubo si è fatto. E quindi cioè il discorso dell'uovo rovesciato è una cosa intelligente, perché non devi fare manutenzione. Da noi in Italia dovremmo togliere tutti i tubi, perché sono tutti tappati, quindi è inutile andare a pulire il tombino quando il tubo è a metà di terra o anche di più. E di conseguenza non possono portare via l'acqua, non possono drenare. Grazie. Benvenuto, signor Sindaco, grazie. Grazie. Ringraziamenti per la disponibilità dello spazio che abbiamo fatto all'inizio e un rinnovo. Niente, il destino volle che non posso farvi vedere il film. Non ne vuole sapere di uscire dal mio computer. Vabbè, so che qui c'è qualcuno che già ha avuto l'opportunità di vedere il film. Confermo che è bellissimo. Ci ha ingolosito. Sei troppo gentile, io sono riuscito a non tirare santioni, ma penso quando sarete lontani e non mi potete vedere ne tirerò alcuni. Vabbè, vi rimane un po' di... conclusione di questo. A questo punto lo metteremo sul sito, magari. Sì. L'unica avvertenza, se potete, guardatevelo con un buon suono, perché la musica è originale, salvo la prima parte, quella dove si sente quello è Messiaen, un pezzo suo degli anni 30, fatto con uno strumento che si chiama, una specie di theremin, si chiama Léon de Martineau, che era uno dei primi strumenti elettronici, però i suoni che sono sotto sono composti, salvo i movimenti dei piedi della ragazza. E poi invece le musiche del resto sono fatte da Danilo Raimondo, suono, sì, che abita Veravo. Veravo. Sì. E anche quel posto che si vede dall'alto con la signora Cristina che traccia segni sul terreno, quello è il campo sportivo di Veravo, che hanno avuto l'idea geniale di fare una pavimentazione completamente di cemento impermeabile, appunto, e, chiamandolo pista di pattinaggio, e quindi questo è un po' il posto. Vi chiedo scusa, mi dispiace moltissimo non essere riuscito a far vedere la fine del film. Qualcuno ha piacere visto che abbiamo qui Greta Stella, Alessandro, Federico Bonelli, dico Alessandro che Alessandro di Arasso, tutti lo conoscono, penso molto bene. Mi chiamo Davide Michelini, sono un resistente, se parliamo di suolo, che sono un imprenditore agricolo, un florovivaista e che amo visceralmente il mio lavoro, quindi la terra e anche le piante, che Alessandro, che ho sentito nominare tante volte e si vede bravissimo, è bravissimo, finalmente riesco a sentirlo dal vivo ed effettivamente, come diceva prima Ian, mi sono annotato e memorizzato un po' di cose perché c'è tanto da imparare. Anzi, a quanto dicevi tu Alessandro, c'è da copiare bene, perché dalle altre parti del mondo tante soluzioni nel verde pubblico, ma semplicemente nell'urbanistica, nella concezione di nuovi spazi urbani, ci sono già gli esempi virtuosi, no? Quindi basterebbe, come dire, fare un tour tra Stati Uniti, Cina, Olanda, Danimarca e Germania e già ci sarebbe tanto da migliorare. Intanto mi sento di ringraziare, ho sentito tutti e quattro gli interventi, da Cristina a ciò che ha detto prima il regista, prima del film parzialmente mancato, però avete detto tutte cose molto suggestive. Mi ha colpito molto e mi ha scosso molto le parole di Greta, che ringrazio tanto perché secondo me con le sue fotografie ha potuto davvero cogliere un po' il disagio, il senso un po' di passività che ogni tanto avvertiamo quando vicino a noi vediamo certe situazioni. Io sono nato nel 75 a Borghetto Santo Spirito e quindi insomma abbiamo visto qualche immagine del mio paese, il mio trisnonno, mio e di Lorenzo, mio cugino, scelse a fine 800 di venire lì, quindi la mia famiglia ha vissuto quello che è diventato oggi Borghetto Santo Spirito, 18.000 unità abitative per circa 4.500 abitanti. Quindi un paese che era la capitale dell'agricoltura ligure è diventato la capitale del cemento, talvolta inutile, delle seconde case, con un disagio, un disastro sociale ed economico che oggi è avvertito, perché oggi i miei coetanei del 75 su 100, 70 sono andati da altre parti, quindi siamo un popolo di migranti. Ecco, da papà di due bambini, ragazzi, che spero che rimangano su questo territorio meraviglioso, perché considero la Liguria uno dei posti più belli al mondo, la domanda che volevo farvi, e mi scuso della lunga introduzione che volevo fare ad Alessandro e a Greta, se vi trovaste ad andare in tour nelle scuole liguri e magari anche in tutti i consigli comunali, cosa possiamo fare domani per salvare la situazione? Lo chiedo a tutti e tre. Allora, purtroppo queste situazioni non si risolvono in tempi brevi. Cioè, io ho fatto vedere delle azioni, ma prima di cambiare la situazione ci vogliono anni, decenni. Il tema degli allagamenti nella piana del Venga, cioè se a settembre prossimo succederà di nuovo, e così pure tra 3 o 4 anni. Cioè, purtroppo. Anni che sono anni che non li puliscono. Sì, ma non è solo quello. E no, la Piemonte è la Spezia Valle, sì. Cioè, lavori proprio contro l'ecologica. Quindi da 11 anni non fanno niente. Purtroppo bisogna cambiare filosofia e ci vuole il tempo che ci vuole. Adesso purtroppo dobbiamo solo incrociare le dita e sperare che il meteo sia clemente. Purtroppo ultimamente non lo è stato. Anche se abbiamo vissuto in passato periodi peggiori, perché poi tenete presente una cosa. Noi ultimamente vediamo tante alluvioni lampo, le vecchie alluvioni, quelle serie che usciva il centro, eccetera, per fortuna queste un po' non le vediamo, speriamo di continuare a non vedere. Anche il 2000, sì, il 2011 a Genova. Agli studenti di una scuola, in Italia, dove dovreste andare a vedere foto, film e magari parlare con le competenze che avete dimostrato, cosa possiamo dire ai ragazzi? No, ad esempio per resistere bisogna fare interventi di questo tipo. Ad esempio costa poco mettersi una vasca in giardino, costa un po' di più farsi un tetto verde, sarebbe bello ci fossero degli incentivi. Così come ci sono tanti incentivi in campo energetico, sarebbe bello ci fossero altrettanti incentivi per mitigare questi fenomeni. Ai ragazzi direi che si può costruire bene. Probabilmente Greta dice che non bisogna costruire, si può costruire. Io li porterei un pezzettino di suolo, anche solo una foto per fargli capire cosa c'è dentro quei 30 centimetri, e gli farei capire che quei 30 centimetri lì serviranno al loro futuro e gli serviranno molto di più di un parcheggio, perché probabilmente nel loro futuro non avranno così tante macchine come noi, che ci sarà molto meno bisogno di costruire un altro centro commerciale, e invece avranno bisogno del suolo perché dovranno mangiare, dovranno coltivare. Quindi gli porterei quella fotografia. Proprio a proposito delle scuole, di cosa portare ai ragazzi, noi come Rosso 9 siamo in contatto con alcuni istituti scolastici delle superiori, abbiamo avviato un dialogo e un incontro come quello di questa sera con l'arte, la fotografia di Greta e le proposte di Alessandro, abbiamo intenzione di replicarla nelle scuole dei ragazzi superiori. Purtroppo devo dire che proprio mentre questo dialogo è in atto, pochi giorni fa è uscito un articolo che dice che finalmente si darà via ai lavori per la riasfaltatura di tutto lo spazio esterno dell'Istituto Falcone di Loano. E proprio nel momento in cui abbiamo iniziato a parlare con i ragazzi, con il dirigente scolastico, e con gli insegnanti, leggo questa notizia e sinceramente è stato per me un po' un colpo fastidioso, perché è veramente nell'immaginario dei cittadini, della stragrande maggioranza dei cittadini e delle cittadine, c'è solo il desiderio di vedere le buche tappate con altro asfalto, un po' di decoro e di arredo urbano e via. Non c'è, cioè queste serate, questi incontri, veramente nella nostra ambizione, desiderio, è quello di fare in modo che le persone comincino a pensare, a riflettere su altre trasformazioni. C'è uno spazio fuori dal Falcone immenso, perché comunque 1200 studenti è veramente un polo scolastico molto importante per tutto il territorio. La riasfaltatura è cancellare una possibilità di una riflessione e di una progettualità nuova rispetto a quella che stiamo portando avanti da tanti anni, non dico 30, non dico 50, non ha importanza. Però noi insomma ci stiamo impegnando per dialogare con i ragazzi, con gli studenti e farli insomma, riflettere e immaginare. E per quel che riguarda quel che c'è da fare, io ne abbiamo già parlato anche con Paolo Pinelli, bisogna che veramente chi ha in mano il potere decisionale oggi agisca, perché gli studenti possiamo formarli col tempo, ma non abbiamo più tutto questo tempo di immaginare un cambiamento da qui a 30 anni, il cambiamento deve avvenire adesso. E quindi veramente i primi interlocutori sono gli amministratori, quindi insomma noi confidiamo che vi dedichiate a fare una riflessione e a mettere in atto azioni in controtendenza rispetto a quelle che sono state fatte fino ad oggi. Grazie. Grazie. I giovani sono su Instagram, su TikTok, in pochi secondi vedono. Ma io finora quando incontro persone molto più giovani di me, ne ho 55, parlo dei 20, 18, mi sembrano estremamente preparati, sanno a cosa vanno incontro i ragazzi. Non tutti, ma una buona fetta. E sono molto preparati nell'immaginare valori nuovi, che non hanno soltanto connessione con il fuoco di paglia di TikTok, l'amoruccio estivo. Io incontro un sacco di giovani estremamente, di ragazzi proprio estremamente intenzionati a fare qualcosa di giusto, e le informazioni ci sono, le altre idee, le altre cose ci sono, bisognerebbe prenderli un po' sul serio, dargli spazio di muoversi, non appunto cementificare sopra il loro immaginario con un vecchio immaginario che non, a cui non crediamo più noi, non crede mio padre e penso non abbia creduto sinceramente neanche mio nonno a suo tempo, insomma. Bisognerebbe dargli un po' di spazio sul serio, prenderli sul serio e indicare dei valori differenti, cioè se li abbiamo, cercarli assieme. Non credo moltissimo in questa stratificazione impermeabile tra le persone. Quando mi capita di lavorare, lavoro un po' con tutti, cerco di partire dall'ascoltare, di farmi capire, eccetera, ma penso che tutti noi, se ci mettiamo e pensiamo e cerchiamo soluzioni ai problemi veri col cuore aperto, le troviamo le soluzioni. Certo, se l'unico valore che anche noi diamo ai giovani è quanto ti costa, in soldi fatti, firmati dallo Stato, non ci arriveremo mai, secondo me, a dare questo spettro di valutazione, insomma. Comunque, ecco, scusate, ho fatto parlare troppo. Grazie. Io devo dire che invece, differentemente dall'istituto di Loano Falcone, quando abbiamo rifatto la nostra scuola abbiamo dato tantissimo spazio alle aree verdi e quindi facendo solo la parte pavimentata dove c'era e abbiamo rimesso, riducendolo, il campo da basket, ma tutto il resto è stato lasciato ad area verde e quindi che ha un costo di manutenzione importante, vedete, che è sempre a carico del comune, però ci rendiamo conto che comunque è una cosa che serve. Ultimamente abbiamo avuto un contributo peraltro dalla regione per ripiantumare la collina che è stata bruciata e con gli esperti dell'agronomi ci hanno consigliato, invece di mettere le piantine, di mettere i semi. Io ero un po' perplesso perché ho detto, i semi se li mangiano i cinghiali. Dice no, va coperti in una certa maniera, e quindi abbiamo ottenuto un contributo fondamentale di 300.000 euro, mi sembra, per la ripiantumazione della collina nelle parti che sono state bruciate dal fuoco negli anni scorsi. Quindi l'attenzione da parte nostra c'è, anche se io faccio architetto, non sono la persona più indicata, perché qualcuno mi contestava. Eravamo diversi architetti stasera. Eravamo diversi, qualcuno sì, già no, dovuto uscire, ma. Siccome qualcuno polemizzava, per dire un po' duplice. Però credo che l'attenzione ci sia sempre, è importante. Va bene. Grazie. Grazie a voi per aver portato all'attenzione chi c'era e anche di chi non c'era, perché comunque ne daremo reso conto sui canali istituzionali, questo importante argomento che è fondamentale. Poi è difficile pulire le tubazioni, da noi in particolare si riempiono di sabbia, ogni tanto bisogna fare la manutenzione e cerchiamo di farlo, però la coperta è sempre corta e quindi il problema è quello. Grazie. Grazie. Grazie. Soltanto due parole, ma anche perché è stato molto esaustivo il nostro sindaco. Personalmente mi è piaciuto molto questo taglio dell'impegno, anche se mi sono persa con una buona parte dell'inizio perché avevo un altro impegno. Con quello che ho visto e ho ascoltato è stato molto interessante e più che altro mi viene da dire che suscita un po' la coscienza di tutti noi, perché effettivamente dobbiamo imparare, dobbiamo avere una cultura diversa, un approccio diverso con il nostro territorio, ma anche con le esigenze abitative, perché dire non cemento significa anche non rispondere alle esigenze abitative di tante persone. Quindi questo convegno, a mio modo di vedere, mette insieme quella che è l'esigenza umana di avere una casa con l'esigenza di tutelare il territorio. Quindi anche l'esposizione della città Spugna è sicuramente molto interessante, ed è, però deve anche educare tutti i cittadini, perché in genere si ha questo spettro della pubblica amministrazione che cementifica, dà la possibilità di cementificare, ma anche il privato cittadino deve avere una cultura del genere, quella di tutelare il proprio territorio. Quindi quando rivolge delle istanze in comune, cioè deve anche cercare di capire che il territorio va tutelato e potrebbe anche metterci un po' di buona volontà anche ai cittadini. Quindi ben vengano convegni del genere e ben venga anche l'idea di andare a parlare nelle scuole di questa problematica che è sempre più attuale e che si spera che prima o poi una soluzione definitiva non sarà, però comunque migliorativa, cioè ci si adatta a quelli che sono i cambiamenti climatici, come ha spiegato prima il dottor Scarpati. Grazie. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, qui sicuramente parte dal computer vostro, mi dispiace, prendo la mia responsabilità, la mia come a casa un po' abbacchiava, anche ne mancava metà, sì, non c'è stato verso, eh sì.